La situazione adesso è tornata sotto controllo. Sotto controllo. Sono le 23 e 06 e 06 un'altra Radio Roma. Qui girano tutti con pezzi di carta con su scritto cosa e non cosa dire. Cosa e non cosa dire. Buon ascolto. Un saluto speciale per Capoccione. Per Capoccione. Per Capoccione. Per Capoccione. Di una buona notte a tutti. A tutti. A tutti. A tutti. Radio Roma. Che facciamo? Dobbiamo continuare? Continuare. Io l'unico pezzo di carta che ho in mano l'ho appena acceso. Vabbè, comunque adesso lancio un bel pezzo. A caso. A caso. Un'altra Radio Roma. blogspot.com. Rimanete con noi. Salve amici e amiche, io sono il selezionatore Gasperino e vi trovate sul pianeta dell'Altra Radio Roma. L'artista che stiamo ascoltando e apprezzando sotto la mia voce è Kangaroo. L'album è Musique Classique avec Sid, rintracciabile facilmente sul sito www.jamendo.com. Il brano è di Johann Sebastian Bach, G. Air. Cosa crea la potenza dell'elettronica unita alla musica classica? Lui unisce il computer, appunto, a questo genere musicale. Qui si passa solo musica Creative Commons. Qui si dà la possibilità ad ognuno di voi di essere realmente, e sottolineo realmente, DJ per un'ora. Come? È semplice. Inviate un vostro podcast, nartraradio@live.it. Ripeto, nartraradio@live.it. Perché questa è la radio di tutti e noi daremo suono alla vostra musica. Non posso nascondervi quanto sono felice e contento di poter passare un'ora insieme a voi. Vi invito a seguirmi in questo lavoro composto da due parti. In questo volo pindarico, il professor unirà il mondo della musica elettronica alle blu note, ai ritmi sincopi del mondo del jazz. Buon viaggio! L'arte. We'll be right back. Ho dimenticato di dirvi che il jingle iniziale che avete ascoltato era l'ultimo jingle realizzato da Nartra Radio Roma, nella fattispecie da Mr. Coco, con la collaborazione di 20 Vita Crew. Ora ringraziamo Kangaroo per le emozioni che ci ha donato e lasciamoci trasportare ancora da questi suoni. Lui è Alexander Blue e l'ho preso dall'archivio di Jamendo. Il brano che vi presento si intitola Concert. Voglio ringraziare Daniela per tutti i consigli che sta dando a questa radio. Grazie Daniela e un bacio. Dopo Alexander Blue e la sua Concert, vi vado a presentare un artista italiano. Suona dal 1986, ha studiato pianoforte, ma la passione per i computer e per il mondo dell'elettronica ha fatto sì che il suo genere musicale fosse proprio l'elettronica. Con questa traccia che vi presento potete notare delle sonorità melodiche e malinconiche. Apprezzare una collaborazione eccezionale di una voce femminile che si chiama Pixie Eguz. Il brano si intitola Distant e lui è Max Wave. Behind every star to find one. Grazie a Max Wave per le emozioni che ci ha donato e continuiamo così. Loro sono francesi e li andiamo a gustare con Mathilde Dreams. No one all over the world has seen something like this before. This is not a game. This is your pleasure zone. Quella che stiamo per sentire è una traccia fresca fresca, pubblicata da poco su Giamendo, esattamente all'inizio dell'aprile di quest'anno. Continuiamo appunto con queste sonorità, calde ed elettroniche. Loro sono i Salesmen of the Galaxy e ci presentano Chatting with a Mutant in the Street of Andromeda. Il brano che vi vado a proporre è di David Voltage. Ho ascoltato attentamente la sua musica e credo che vada dato spazio ad artisti che come lui cercano di esprimere la propria arte in contesti non troppo favorevoli. Lui è di Palermo, il brano si intitola Sali e Spezzi e lo potete trovare su www.myspace.com. Cercate David Voltage, Voltage. Il brano è stato inciso insieme a Romualdo e si intitola Sali e Spezzi. Sali e Spezzi. Per tornare a Roma vincitori. Ma che de? Dicono, non è una radio, è un'altra radio. Un'altra radio Roma. Non c'è un'altra. Radio Roma. Un'altra Radio Roma, dove la musica è la padrona. Con un grosso balzo salutiamo il mondo della musica elettronica e avventuriamoci nel mondo del jazz, un genere musicale che a me colpisce ed entusiasma particolarmente. L'artista che vi vado a proporre è un artista romano. Pensate che con questo album uscito su Giamendo il 30 luglio del 2009 ha avuto circa 47.500 ascolti ed è stato scaricato da 5.000 utenti circa. La traccia è Looking for a Way Out, che poi dà il titolo all'album, e lui è Paolo Pavan. Dopo Paolo Pavan vi vado a proporre un brano che ho scovato su www.dogmagic.net con licenza Free Music, pubblica licenza, autoprodotto. Lui è Julien Siro, l'album è del marzo del 2010 e il brano che ci andiamo a ascoltare si intitola Voca Sao. Dopo l'archivio di Dogmazic vado a scovare un brano su Free Music Archive. Loro sono i Cantonment Jazz Band e l'album è del 2006 dal titolo blissblood.com, traccia intitolata Thinking of You. I'm so distracted, my man is acting like a heart that's good for nothing. Trusted, now I'm disgusted. I found him out, had a showdown. When I think of him, how much I love him, I get a desperate notion. That's the way I feel today. My heart is aching because he's making a plaything of my devotion. That's the way I feel today. Without any reason or a word to say, that man turned his keys in, he packed and went away. What good is living? I'll soon be giving my body up to the ocean. That's the way I feel today.

spettacolari, spettacolari veramente. Erano i Jazz Street Trio, direttamente da Filadelfia, ci hanno proposto questo stupendo brano. Vi li consiglio caldamente, ricordatele, Mr. Gasperino vi consiglia i Jazz Street Trio. Ma ora torniamo nuovamente nell'archivio di Free Music Archive per prendere un brano dei The Moonlight Tears, dal titolo Desperado. Take away my liberty. Started out this escapade as careless as could be. I left behind my peace of mind and my tranquility. I'm just a desperado. Oh, baby, can't you see? I'll go on running wild until you capture me. Dall'archivio di Cube.tv vado a pescare un artista di Livorno. È un cantautore e compositore jazzista, si chiama Carlo Pilas, il brano è Il vento di Cuba, a me ricorda un po' Fred Buscaglioni. Gustatevelo su un'altra Radio Roma, Il vento di Cuba. Gustatevelo, gustatevelo, gustatevelo, gustatevelo. Splendore di Cuba vista da un casino. Biblico era il tramonto sicuro di sé. Come il mal d'Africa esiste, se esiste come. Sudavo il lino, era greve dal gomito in su. Qui si infittisce il mistero e la gente che fa. Balla la salsa felice, felice sarà. Il profumo delle serate donne champon. E la macumba è uno spettacolo varietà. L'Avana bella città fra tabacchi e bazar. Qui tutto quanto fa musica, anche il cha-cha-cha. E chiedo asilo ai tamburi ammaliato dal sound. Questa è America, Europa o Cuba, chissà. È una Spagna al tramonto di un bel soleon. Ma lascio Cuba domani, parto verso le tre. Con il vento a favore, quel poco che c'è. Il le serate, donne e champagne. E la macumba è uno spettacolo varietà. Quel profumo delle serate, donne e champagne. E la macumba è uno spettacolo varietà. Carlo Piras e il suo vento di Cuba e torniamo nuovamente negli Stati Uniti d'America, per l'esattezza a New York. Grazie all'archivio di Giamendo sono andato a pescare questo quintetto che suona insieme dal 1993. Si chiamano i The James Quintet, il brano è Stella, buon ascolto. Thank you. Siamo giunti proprio alla fine di questo podcast e spero che questo esperimento musicale, ossia passare dal mondo della musica elettronica a quello del jazz, vi sia piaciuto, perché a me, a realizzarlo, ha divertito tantissimo. Ricordo, per chiunque volesse esprimere le proprie opinioni, i nostri contatti. Siamo su Facebook, su Skype e su MySpace e la nostra email è nartraradio@live.it. Scriveteci, mandateci musica, preparate dei podcast e inviateli. Insomma, entrate nel mondo dell'Altra Radio Roma, la radio de tutti. De tutti. De tutti. De tutti. De tutti. De tutti. E l'artista che ho scelto per salutarci si trova nel sito di Giamendo. Dovete immaginare questa radio piena di archivi. E quindi vado a ringraziare i siti che hanno permesso a noi di scaricare questa musica, di farvela conoscere, di proporla. E se a voi è piaciuto, andateli a cercare appunto nei siti che io vado a ringraziare. Ringrazio MySpace, Dogmazic, Giamendo, Free Music Archive, Cube.tv. L'artista che vi vado a presentare per salutarci appunto è canadese e ha chiare influenze musicali con il mondo del jazz, anche se ci propone un ottimo pop. Fa parte degli album di ultima pubblicazione, è stato pubblicato appunto nel marzo del 2010. Io vi ringrazio, vi saluto, vi abbraccio e vi invito a seguire le nostre produzioni. Lei è Alison Crew con la sua Spiral. Buon ascolto e arrivederci a tutti! I'm jealous and crazy, languid and lazy, take me quickly, fill me sickly, naked I take it, to lips and a painted return down recording, late and stirring, spiral quickly, you can't see me, but I'm dropping. Buckled and crashed and safely sunder, silent wonder, a fine degradation, fixation, pain dissipates, sacred desecrates, spiral quick. We'll be right back.